Siamo con Giorgio Ginori, direttore della 24esima edizione dell'Isola del Cinema a Roma, all'Isola Tiberina, dal 14 giugno al 2 settembre. Giorgio, ben trovato. Ciao Federico, ciao, un saluto a tutti voi, che gioia ritrovarmi a Onda Rossa. Ci racconti? Allora, guarda, noi abbiamo quest'anno un po' di novità da proporre. Devo dire che già 24 anni fa, che sembra una vita, era il 1995, centenario del cinema, della nascita del cinema, e mi ricordo che allora avevo in mente un verso, un passaggio di un poeta francese, non faccio citazioni, ma insomma, che diceva: bisogna avere il coraggio di essere contemporanei, ok? E sarebbe interessante poi parlare anche di questo poeta, ma non ha importanza, non è la citazione. Quello che volevo dire è che allora noi, 24 anni fa, siamo nati con la voglia proprio di essere laboratorio, di essere contemporanei. Se posso citare un grande che io considero un po' come uno zio dell'Isola del Cinema, perché stava con noi come un bambino, e sto parlando di Gillo Pontecorvo. E lui agli inizi è stato con noi, mi ricordo, e c'è una lettera che un giorno, se vuoi, ti manderò, in cui mi parlava di tante sue idee. Ultimamente con Pivio, il grande Pivio, che ha vinto adesso due Davide di Donatello con Amore e Malavita, con Pivio gli ho fatto leggere la lettera in cui Gillo mi diceva: bisogna fare un concorso in cui il musicista è sceneggiatore, perché contribuisce a scrivere la sceneggiatura, non dopo. Vabbè, tante cose per dirti che noi già all'inizio avevamo questa forte voglia, questa idea forte di Isola del Cinema, non solo come piacere, luogo dell'incontro, ma proprio come laboratorio. Insomma, l'ho fatta un po' lunga per dirti che quest'anno noi andremo ancora più in là, perché tutta questa idea di laboratorio ce la siamo portata dietro in questi 24 anni. Quest'anno, con una edizione che si chiama L'Isola di Roma, noi facciamo interagire di più il cinema con quel laboratorio delle arti che sono la musica, che sono la letteratura. Cioè cerchiamo di portare sull'Isola Tiberina, Isola di Roma, qualcosa che sia, come dire, quel momento, quel territorio che ispira il cinema e che si chiama musica, che si chiama letteratura, però dando a queste arti come dire, la possibilità di essere protagoniste. Per dirti, arriveranno sette concerti di musica da Parigi, da New York, da Londra. Abbiamo chiamato questa l'Isola di Roma Jazz Blues, con musicisti tipo la pianista Carla Bley, il mitico sassofonista statunitense Kenny Garrett, il quartetto del Mali Songoi Blues, oppure i percussionisti di Alexander Misko. Quindi adesso non vorrei monopolizzare tutto il tempo, ma ci tenevo a sottolineare che accanto a questa isola mondo, cioè questo incontro con tanti paesi da ogni parte del mondo, e accanto a questa idea di opere prime, di giovani autori, il cinema italiano, che è per noi una vera grande passione, ecco, quest'idea del laboratorio quest'anno è diventata più evidente, più presente. Si parla di parecchie giornate. Quante sono le opere più o meno che presenterete? 200, sono almeno 200 film, Sì. sono almeno 200 film spalmati fino al 2 di settembre su quattro schermi, perché noi abbiamo lo schermo grande, l'arena, che sono 700 posti, e poi abbiamo lo schermo, si chiama Spazio Young, che è uno spazio dove presentiamo libri, dove presentiamo eventi legati anche al sociale. C'è un esempio di una rassegna che si chiama Visioni Sociali, e poi lì ci sono piccoli concertini, insomma è una specie di piccola agorà in mezzo all'isola Tiberina che si chiama Spazio Young, e E poi c'è il CineLab che è uno spazio dove lì si fa anche sperimentazione, documentari, cortometraggi. A proposito, lasciami dire Sì. che c'è un concorso di cortometraggi a cui teniamo molto, che si chiama Mamma Roma e le periferie d'Italia. Mamma Roma e le periferie d'Italia è proprio un concorso di cortometraggi che quest'anno vuole confrontare non solo con Roma. Tu sai che è stato istituito una sorta di distretto metropolitano che sono Roma e altre 13 città, Milano, Napoli, Torino, e noi abbiamo quindi esteso questo concorso. Ti ricorderai forse Mamma Roma e i suoi quartieri, no? Sì. Adesso Mamma Roma e i suoi quartieri si è estesa idealmente in tutte le metropoli e soprattutto in questo del distretto metropolitano d'Italia, e si chiama Mamma Roma e le periferie d'Italia. Sono temi liberi, 3-5 minuti, l'ho detto perché gli ascoltatori di Onda Rossa, se vanno sul sito www.isoladalcinema.com, trovano il concorso. E sarà bello anche quest'anno accogliere tutti questi corti che raccontano le periferie non solo di Roma, ma le periferie d'Italia. Sì. Giorgio, è prevista anche la presenza degli autori? Assolutamente. Ad esempio domani iniziamo con Paola Cortellesi, che sarà lì con Riccardo Milani, il regista nonché marito, e Paola Cortellesi a presentare Come un gatto in tangenziale, questo film bellissimo, che è che è anche un omaggio in qualche modo a Roma e a questo titolo dell'edizione che è L'Isola di Roma. Quindi sarà una serata bellissima con questa splendida, bravissima Cortellesi, di cui mi è sempre stupito la facilità che lei ha a cambiare registro. Passa dal drammatico al comico con un'agilità, con una naturalezza che secondo me è stupefacente. La ritengo una delle attrici più complete proprio che abbiamo in Italia. E poi altri autori, verrà Carlo Verdone, Carlo, il grande Carlo, ci sarà Massimo Popolizio che farà un reading. Ci sarà Michele Murgia, Zero Calcare, ci sono tanti tanti autori. Diciamo che tutti i grandi film che noi passeremo saranno accompagnati dai loro autori, per cui non so, Ospetek di Napoli Velata, Luca Guadagnino di Chiamami con il tuo nome, Amore e Malavita verranno dei Manetti Bros. Sì. Verrà Alessandro Gassman con Gigi Proietti e Anna Foglietta, insomma tanti tanti ospiti a seguire i tanti tanti film e i tanti eventi che adesso non so dire, Certo. smetto di dire, se no ti rubo troppo Certo. spazio. Senti, allora in chiusura sarà tutti i giorni della settimana e poi da che ora a che ora? Allora, noi iniziamo alle ore 7 di sera, apriamo l'isola alle 8 di sera, alle 7 di sera e la teniamo aperta fino alle 2. Una serie di eventi che si rincorrono, ad esempio facciamo degli happy hours, presentazioni di libri dalle 7 alle 9, dei concertini, al tramonto che lì è bellissimo perché c'è questa luce, questo sole che proprio cala sul fiume e illumina l'isola Tiberina in un modo spettacolare. Io prima o poi vorrei fare un concorso di fotografia. Ti ricordi il Raggio Verde, il film Sì, Il Raggio Verde? certo. Raggio verde sul fiume Tevere intorno all'isola Tiberina, perché una sera vi invito, quando cala il sole sull'isola Tiberina, proprio il Tevere, l'acqua, prende dei riflessi straordinari, tipo il raggio verde. Per cui ecco, c'è questa idea di utilizzare l'isola Tiberina dalle 7 in poi, con una serie di eventi, concertini, libri, ospiti, eccetera, e poi si va avanti fino alle 2 con i tre schermi più uno. Permettimi di dire che noi abbiamo un quarto schermo bellissimo a cui teniamo molto, lo facciamo da tanti tanti anni, ed è la sala dell'Assunta dentro l'ospedale Fatebenefratelli. Tu sai che ormai c'è una branca universitaria che si chiama cinematerapia, no? Sì. E tra l'altro dico una cosa carina, noi 10 anni fa, proprio con l'amico Carlo Verdone, al Gemelli abbiamo inaugurato un ciclo di film. Era venuto proprio Carlo, mi ricordo, collegati con i televisori, anche con i malati che non potevano scendere. Tu sai che dopo 10 anni al Policlinico Gemelli c'è una sala che tutti i giorni proietta film, come se nella cittadella Policlinico Gemelli il cinema è strutturale, non è più episodico. Ecco, noi non l'abbiamo ancora fatto al Fatebene Fratelli perché, come dire, non è semplice, però ogni anno e anche quest'anno alla Sala dell'Assunta c'è il cinema per i malati che possono scendere, per gli infermieri, per le maestranze e per le famiglie, e questo mi piace molto, che si riuniscono insieme per vedere un film. E questo mi sembra molto bello e tra l'altro crea una specie di unicum fra il sopra e il sotto dell'isola, perché è chiaro che le istituzioni stanno sopra, parlo di comunità Fatebene Fratelli, comunità ebraica, comunità di Sant'Egidio, fanno parte di questo unicum che è l'isola Tiberina, l'isola di Roma. Ok, e in chiusura, Giorgio, ci lasci anche il sito internet per tutte le informazioni? Allora, quest'anno ci sono due siti internet. Uno è www.isoladiroma.it, www.isoladiroma.it, e naturalmente anche il classico sito www.isoladelcinema.com. Ok. Allora, ricordiamo la 24esima edizione dell'Isola del Cinema all'Isola Tiberina a Roma dal 14 giugno al 2 settembre. Giorgio, un abbraccio, a risentirci presto. A risentirci presto, grazie di cuore, vi aspettiamo, grazie.